Nessuno di voi si sarà stupito, suppongo, alla notizia che il Consiglio Comunale di Milano ha rifiutato, o intende rifiutare, non ho capito bene, comunque a grande maggioranza, la proposta di intitolare una via cittadina alla memoria di Pietro Valpreda. Conosciamo tutti la maggioranza che siede a Palazzo Marino, sappiamo di quanta meschinità morale possono dare a prova i suoi esponenti, che se parlano spesso di riconciliazione tra le parti opposte fanno seguire i fatti alle parole solo quando si tratta di visitare la tomba di un re, di onorare i combattenti della RSI o di ricordare qualcuno che appartiene comunque alla loro fazione. Da costoro non c'era certo da aspettarsi un riconoscimento postumo dell'ingiustizia commessa in questa città con tutte le arie che si dà ai danni di un innocente, anche se il suo caso è stato al centro di una mobilitazione popolare che, a pensarci bene, oltre alla libertà dell'interessato, ha salvato quel poco tanto di democrazia che resta nel nostro paese. Ma al di là di queste ovvie considerazioni, c'è forse un'altra osservazione da fare. Di onoranze del genere, in fondo, se ne può fare agevolmente a meno. Non so quando né dove abbia preso piede l'usanza di intestare strade e piazze ai cittadini benemeriti, ma non l'ho mai trovato particolarmente entusiasmante, allo stesso titolo per cui sono felici i paesi che non hanno bisogno d'eroi. Credo che beate siano le città che, come New York per dirne una, possono permettersi di denominare in altro modo le proprie vie, senza farne una specie di cimitero di lapidi in onore di personaggi più o meno illustri, ma nella maggior parte dei casi sconosciuti ai più. Anche perché si tratta di un tipo di beatificazione che finisce fatalmente per annegare differenze e specificità in una specie d'ossequio antistorico indifferenziato. Pensate, per intenderci, alle intestazioni risorgimentali delle vie principali della maggior parte dei nostri centri urbani, dove i vari corsi Garibaldi sboccano tranquillamente nei larghi Cavour e le vie Mazzini incrociano senza problemi viali Vittorio Emanuele, cancellando dalla memoria collettiva, nella comune onoranza, le differenze, le specificità dei contributi e persino le violente antipatie personali che dividevano quei sommi. Non so voi, ma io di una via Pietro Valpreda posta perché bisogna riconciliarci nei pressi di un largo caduti della decima mass non sento un particolare bisogno. E poi scusate, cosa avrebbero potuto scrivere sotto il nome sulla targa di quella via i nostri specialisti di toponomastica, poveretti? Via Pietro Valpreda va bene, e le date anche, ma poi via Pietro Valpreda anarchico sarebbe stata certo una scritta adeguata, ma chissà perché non me la vedo bene, e l'anarchia per un motivo o per l'altro fa ancora paura a troppa gente. Via Pietro Valpreda ballerino sarebbe stata una grossolana sottovalutazione, come del resto via Pietro Valpreda romanziere, anche se Pietro, lasciatemi chiamarlo per nome, non ha mai rinnegato il suo passato di ballerino professionista e negli ultimi anni da solo, in collaborazione con il buon Piero Colaprico, ha scritto degli ottimi romanzi gialli che mi permetto, se non li conoscete già, di raccomandare alla vostra attenzione. 101 avrebbero finito per limitarsi a un malinconico Pietro Valpreda 1933-2002 e tradendo l'implicita volontà di farne uno dei tanti Carneade i cui nome languono agli angoli delle vie. In realtà, l'unica specificazione che si sarebbe potuto e dovuto aggiungere in quella sede sarebbe stata qualcosa del tipo di via Pietro Valpreda vittima innocente, o meglio ancora di via Pietro Valpreda capro espiatorio mancato, e questo, lo sappiamo tutti, sarebbe stato proprio impossibile perché si sarebbe avvicinato troppo alla verità, e la verità su Piazza Fontana 33 anni dopo è ancora altrettanto remota di quanto lo fosse la sera di quel 12 aprile. Remota naturalmente a livello ufficiale, noi almeno a grandi linee la conosciamo benissimo. E appunto per questo, senza bisogno di targhe stradali o lapidi o cose del genere, continueremo tranquillamente a onorare la memoria di Pietro Valpreda, accusato innocente di una strage di Stato. Dicembre, non 12 aprile, ci si confonde. Se pone triste contemplando la silhouette.